Fanciulla l'imbrunir, dimmi vuoi da me venir, io t'attenderò, non dir di no, nella mia casetta allora, che nascosta in mezzo ai fior, reginetta ormai tu ben sarai. Al mio sen ti stringerò e coi baci ti darò del mio grande amor il folle ardor. E la notte nel mistero di un ti segue sul sentiero, nessun vedrà se l'uscio s'aprirà. Entriamo insieme, chiudiamo e poi l'uscio sarà fra il mondo e noi. La luna intanto ne occhieggia dal ciel, ma tacerà muta e fedele. Leggerà l'imane arcar un usignol lontan, mentre abbracciati vedremo spuntar il sol che sulla fronte ci verrà baciar. Fanciulla l'imbrunir, dimmi vuoi da me venir, io t'attenderò, non di no. Nell'alcova nel tepò sogneremo baci amor, io t'attenderò, non